La ilaha illallahu qabla kulli shay'in. Non c'è divinità tranne Allah. Egli è prima di ogni realtà. La ilaha illallahu ba'da kulli shay'in. Non c'è divinità tranne Allah. Egli è dopo ogni realtà. La ilaha illallahu yabqa rabbuna. Non c'è divinità tranne Allah. Eterno è il nostro Signore. Wa yafna wa yamutu kullu shay'in. Mentre svanisce e muore ogni realtà.